Guardando la biografia del maestro Antonio Moresco, ho visto veramente una biografia affascinante e piena di aspetti molto diversi tra di loro, ma racchiusi appunto in un'unica vita. Innanzitutto ho visto infanzia in collegio e poi militanza nella sinistra extraparlamentare. Sì, il caso mi ha portato a vivere queste esperienze qua. Sono stato 3 anni in un seminario, ho fatto 10 anni di militanza nella sinistra extraparlamentare, ma molto, molto intensa, implicata anche con episodi di visite, diciamo così, nelle carceri del nostro paese. Ma anche prima la mia vita era strana perché io facevo parte di una famiglia che stava a servizio, una famiglia di nobili. E per dire, non so se avete visto Novecento di Bertolucci, ecco, quella villa lì dove c'era Barnancaster, Robert De Niro, era una villa dove io andavo perché era dei miei nonni, quelli che chiamavo nonni, che non erano nonni. Insomma, fin dall'inizio la mia vita ha preso delle torsioni molto strane. E poi anche dopo la mia vicenda di scrittore è stata complicata perché io ho cominciato a scrivere seriamente a 30 anni, dopo il decennio, diciamo così, delle lotte politiche. Ci sono voluti 15 anni di rifiuti sistematici, eccetera, perché trovassi il primo editore. E anche dopo è stata molto complicata la mia vicenda con continui cambi di editori, cacciate, eccetera, eccetera. Infatti, se non erro, lei ha dedicato un libro che si chiama Lettere a nessuno, proprio a questo rapporto a dir poco conflittuale con l'editoria. Quello è un libro che io ho scritto mentre ero uno scrittore sotterraneo, raccontando tutta la mia vicenda drammatica, ma anche la mia idea artistica, eccetera. E però è un libro che mi ha fatto terra bruciata intorno, perché poi molte persone che si sono riconosciute si sono incazzate naturalmente, no? Con me, e quindi mi hanno messo in una posizione difficile. Però alcuni mi hanno detto, ma dei libri così li scrivi, bisogna scriverli solo quando sei forte, ma quando sei forte o credi di essere, non li scrivi perché fai il calcolo di quello che ti conviene e quello che non ti conviene, quindi se tornassi indietro lo rifarei uguale identico. Grazie, le vorrei chiedere anche un accenno alle due camminate che hanno costituito una parte importante della sua vita. Ah, all'aver d'età di 62 anni ho cominciato a camminare, ma non camminare per migliaia di chilometri, e ne ho fatte una quindicina ormai di camminate, da Milano a Napoli, da Mantova a Strasburgo, da Parigi a Berlino, da Trieste a Sarajevo. Cammini anche di 1000-1200 km, ma dormendo per terra con i sacchi a pelo, no? E questa è una parte della mia vita importante perché mi ha aiutato a capire che si possono fare anche delle cose che sembrano impossibili, e quindi fa parte anche del mio modo di stare dentro nel mondo. Fra l'altro, nell'ultima camminata, quella da Mantova a Strasburgo, è stato redatto anche un testo. E lì ci siamo collegati alla questione del manifesto di Ventotene. Siamo arrivati là e a un certo punto si vede che l'ha saputo l'allora presidente, che si chiamava Martin Schulz, e allora ci ha ricevuto nella sala protocollare, ha detto: io qua ricevo i capi di Stato, appena ricevuto Obama, eccetera, e ci ha ricevuto noi che eravamo sporchi, puzzolenti, sudati, eccetera, e ci ha ricevuto come dei capi di Stato, e noi gli abbiamo dato una lettera che abbiamo scritto durante il cammino per dire come vorremmo, sogneremmo che fosse l'Europa.